I contenuti della petizione sono quelli di se questo povero Marco Cavallo, soprattutto del suo valore simbolico, no? Noi sappiamo che in politica mai come oggi i simboli sono sostanza, perché sono memoria, sono storia, vuole essere rottamato? No, beh, il messaggio che noi vogliamo dare no, è che esistono altre città e altri luoghi che invece lo accolgono e danno una casa e vogliono dare una casa a Marco Cavallo. Ci tengo però, Alessandro, a dire subito una cosa fondamentale, che tra l'altro nella petizione è scritta, che la casa di Marco Cavallo anche per noi deve essere Trieste, dove è nato, e da lì deve partire per le sue battaglie di libertà itineranti. Pensiamo a quella, cos'era, il 2015, no, che ha portato alla chiusura degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, che Marco Cavallo ha girato l'Italia per portare avanti questa battaglia, no? Quindi una simbologia fortissima. E pensiamo anche che questo tipo di iniziative, che io spero e auspico anche altre città pensino, aiutino gli amici, i compagni di Trieste, di adesso Trieste e gli altri che si stanno mobilitando per tenere Marco Cavallo a Trieste, perché in qualche modo il messaggio che diciamo noi è a chi invece lo vuole rottamare, e con Marco Cavallo rottamare la parte più nobile della storia, quella che il mio amico Alessandro Metz di Trieste definisce forse l'unica rivoluzione che abbiamo vinto in questi decenni, e quindi di aiutarli anche per dire no, guardate che voi lo volete buttar via, però noi invece lo vogliamo accogliere. Questo è un tipo di pressione che speriamo aiuti gli amici di Trieste. L'altro tipo è la pressione anche sulla politica locale a Bologna, sperando che qualcuno prenda, visto che c'è un'iniziativa di cittadini, no? Una raccolta di firme di cittadini, sappiamo che queste cose qui non è che hanno un grande valore legale, no? Ma hanno un valore di pressione, prenda in mano la vicenda e magari faccia un'interpellanza anche qui, porti avanti la battaglia nelle istituzioni, perché il problema qui è riaprire una discussione in quello che è successo a Trieste in merito al cambiamento del direttore generale della salute mentale di Barco. No? Che per la prima volta nella storia non è un basagliano, ma è arrivato da Cagliari, dove notoriamente c'era un approccio psichiatrico di tipo antico, vecchio, pre-basagliano, no? Quindi c'è, come dire, anche proprio un attacco rispetto a queste conquiste, a questi valori. La nostra petizione è un, seppur piccolo e misero, è un contributo, diciamo, a fermare questa valanga reazionaria in un campo dove molti di noi sono anche impiegati. Beh, io faccio poi sono conduttore di una trasmissione che spesso si occupa di questi temi, ma lavoro in ambito psichiatrico, ho sempre fatto attivismo, e così gli altri promotori della petizione. Quindi insomma è chiaro che l'attacco al simbolo in realtà è proprio l'attacco a tutto il sistema della salute mentale, come dire, democratico, che ha creato Basaglia. Dove si può trovare la petizione? Allora, petizione.com, il nome della petizione dentro petizioni.com, diamo una casa a Bologna a Marco Cavallo. Ma sia chiaro, noi saremo i primi a festeggiare se la casa di Marco Cavallo viene, come dire, trovata a Trieste. Tra gli ideatori di Marco Cavallo c'è lo Giuliano Scabbia, che noi abbiamo perso di recente, e quindi anche Bologna ha un valore particolare, perché Giuliano è stato tra l'altro il professore di drammaturgia, ha sviluppato la sua attività qui a Bologna all'interno del DAMS, è stato anche un mio insegnante, tra l'altro, perché io ho fatto il DAMS, quindi particolarmente, quindi non è Bologna, diciamo così, avrebbe, nel caso appunto Marco Cavallo non trovasse la sua sacrosanta, naturale, giusta casa a Trieste, avrebbe anche, come dire, avrebbe un senso portarlo qui, perché uno degli ideatori, diciamo così, le sue visioni drammaturgiche le ha sviluppate in questa città. Ecco, solo questo volevo aggiungere.